è andata così. Domani così mi lo stesso, domani dice che a me sto bello lo stesso. Domani è così uguale. Sì, allora scendo domani a farmi un giro, così vado e cammino un po'. Stavo portando pure il cane, cazzo, proprio per camminare. Cazzo. E vai, la prendi che c'è freddo, va più che c'è cazzo, mamma mia. E infatti se me va uscire è proprio perché c'era freddo. Ascolta a me, Nazarino, ma lì nel garage quanto è che paghi tu? 60 euro al mese. Il dettaglio non lo conosco. Cazzo, un bel denaro. Ma cazzo, almeno evito di fare tre giri isolato prima di trovare parcheggio. È un macello. Ma lo sai le volte che me l'hanno portata via e le multe che mi ho dovuto pagare? Non ne hai idea. Già lo so, è un punto di merda quello lì. È proprio un punto di merda lì. Già lo so. Non ve ne è parcheggio, non è venuto arrivare, è un macello, vi do più macchine che uomini a Sassari. Non posso immaginare, cazzo, di amore, deve essere un casino Sassari. Una volta, cazzo, ho steso la macchina, lo sai dove? Dove ci sono, vicino al convento delle suore, lì, no? In fondo. Avevo trovato il parcheggio bello, la posteggio, allora mi stanno buttando la macchina. A chi doveva ne va di ritravagli, in chi viene poi sul castello e mi hanno portato via la macchina. E so che ho dovuto andare a piedi fino all'ATP a ritirarmi la macchina, lo sai. Ho dovuto pagare la multa e poi il trasporto pure. E mi è costato roba di 130 euro, lo scherzetto. No, io non sono sicuro, non le lascio le macchine, piuttosto che mi portano un mezzo bel sapere, ma so che la macchina è tranquilla, che non ha tocca. Cazzo, il castello non finirà, quando la giù posteggiata, era tranquillo il parcheggio. E da voi che di chi doveva levare i travagli, sicuramente la macchina era lontano, da onde abito io, era vicino al convento lì, no? E il parcheggio c'era, dove c'è Cosomi, quello che vende i mobili, lì vicino. C'era anche il bar aperto prima, però non sapevano di chi era questa macchina, intanto mi tirano buttata. Quando mi ha buttato, sai, è bello la galleggia. Caro Grido, se li impedisce la macchina se la portano via. No, io non la porto, messo perché hanno messo il cartello del carrattrezzi e te l'hanno portata via. Finché non finiscono i lavori loro se la possono portare via sempre. Eh beh, se ci sono lavori in corso sì, non la puoi lasciare, perché devono entrare con i mezzi e tutto qua. Infatti, però il cartello non ce n'era. Siccome l'ho lasciata una settimana che non la toccavo la macchina e quindi non ne sapevo io. Cazzo, in domenica ando, era in domenica mattina, cazzo la macchina me l'hanno curata. Mamma mia, te fregato, quando dice non ha già più la macchina, mamma mia. E allora, in domenica mattina è successo che ho scoperto che non c'era più la macchina, perché me l'avevano portata via il carro attrice. Aspetta che mi ha sentito un attimo, Natale. Sì.